Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, siamo qua, sono le 8:20. Buongiorno caro Alessandro, cari tutti gli ascoltatori. Questo 31 di maggio, visitazione della Vergine, non è stata raggiunta dagli agenti dell'Agenzia delle Entrate, ma l'equivalente, perché quando l'Arcangelo Gabriele è arrivato e gli ha detto: guarda che abbiamo dei progetti su di te, farai dei figli senza i gammetti di tuo marito. Lei all'epoca, insomma, era un po' impreparata, questo non c'era la legge. Però poi è finita bene, come sapete, perché erano un po' più comprensivi di quanto non sia il dibattito pubblico italiano. Questa è la sintesi della visitazione della Vergine. La rilettura del Vangelo. E beh, sai, all'epoca dire: guarda, lo fai un figlio ma senza tuo marito, cioè, com'è? C'è un miracolo, come diceva il mitico, ti ricordi, il grande comico napoletano che tutti piangiamo perché ci manca molto. Ma comunque, altri santi del giorno molto diffusi, per esempio Canzio, Canziano e Canzianilla. Che vanno sempre insieme, sì, e gli hanno tagliato la testa insieme più che altro. Ecco, e sempre che siano mai esistiti c'è qualche dubbio, però insomma. Oppure Santa Petronilla, anche lei vergine e martire. Sant'Ermia, che non è quella che si imbocca quando fa male all'inguine. San Pascasio, Silvio da Tolosa, Vitale d'Assisi. E poi volevo dire due parole su questa San Camilla Battista Lavarano, che è uno dei classici santi, come ieri il re spagnolo che vi dicevo, questa figlia dei re, anzi no, dei signori, perdonate, di Montefeltro e Camerino, insomma, invece che poi diventare ereditare, erano troppi figli, il Papa gli compra, gli apre un bel convento di Clarissa, lei diventa badessa e così via, e poi diventa santa. Ecco, un sistema con cui la Chiesa spesso si è fatto amici i potenti, e quello poi di mettergli i santi in famiglia. Guardate che io sono rispettoso del culto dei santi, però quando è così qualche dubbio perché viene. Qualcuno scrive e dice: ma insomma, no, ma insomma, però insomma, tutti questi re figli di ricchi e di potenti, capite che oggi comunque preghiamo tutti questi santi, perché la Banca d'Italia dovrebbe finalmente battersi il petto, ci sono le considerazioni annuali, visto che in Veneto più di 200.000 soci di Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno perso 11 miliardi e mezzo, sì, perché hanno creduto alla Banca d'Italia che le banche erano solide. Speriamo che il governatore oggi si batta il petto, non ci credo minimamente. Radio 24 dirà che fa bene a non farlo, io dico il contrario. Tra l'altro, visto che oggi anche molti preti hanno perso, racconto del giornale, che non hanno soldi nelle diocesi da quelle parti, perché erano soci anche loro. È noto che avevamo banche solidissime, che la vigilanza gli ispezionava e diceva che quei valori di libro, di quei prezzi, erano formidabilmente allineati a quello che il mercato avrebbe immaginato, che la colpa è dei tedeschi, vero signor governatore? Come no? Allora, tra l'altro, dobbiamo dire una cosa: noi saremo in onda in diretta sempre in questo ponte e pontone. Voi il 2 giugno noi siamo qua, il 3 giugno siamo qua, l'1 giugno siamo qua. Ai seggi non fa gli scrutatori? Questo, o siamo qua? No, ai seggi non faremo gli scrutatori, come moltissimi netturbini di Roma. Hai detto che moltissimi netturbini di Roma. Il senso civile è molto elevato. Magari si fa sciopero, però poi si va a fare gli scrutatori. Allora, cari ascoltatori, oggi racconteremo qualcosa che succede in Calabria riguardo alla sanità più avanti. Però mi ha colpito, Oscar, questa storia degli 80 euro di molti italiani, molti, 1.400.000 che devono restituire. E molti, direi di sì. Però sai che molti, 11.300.000. Certo, però molti ci scrivono e dicono: ma scusa, ma se questi soldi non sono dovuti, perché ricordiamo che li doveva prendere chi aveva meno di 26.000 euro lordi. Cioè, poi alla fine dell'anno uno, magari per il ricalcolo, ha superato il reddito. In questo caso molti l'hanno dovuto restituire, perché andava dato a chi aveva 26.000 euro lordi. Insomma, il dato di fatto, molti per la verità sono incapienti, quindi hanno preso troppo poco. 380.000, quindi, esattamente. Esatto, quindi ci sono... Ancora più ridicolo, cioè mettiti nei panni di chi non ha neanche la soglia, eccetera, eccetera, e deve restituirli una volta avuti. Cioè, lo immaginiamo, quante bestemmie fa. No, ma anche per gli altri, perdonate, questo giustificazionismo io non lo capisco. L'avesse fatto qualche altro governo, come sempre, rogo... Allora, qui il problema qual è? Fin dall'inizio qualcuno, quorum ego, io e pochi altri, rompiscatole di professione, abbiamo fatto presente questo. Nella foga del vostro annuncio che volete immediatamente tradurre in tasca prima del turno elettorale, perché questo è il punto anche all'epoca, facendo le cose così di fretta, cosa farete? Farete che lo attribuirete non in dichiarazione dei redditi, quella sui redditi su cui bisognerà fare il conto. Glieli volete dare prima e subito per dimostrare, tanto prenditeli, e questo succederà, fatto inevitabilmente succederà che bisognerà calcolare sulla dichiarazione, ci sarà chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, e quindi sarà un pasticcio. Il pasticcio è puntualmente avvenuto. Sì. E come si vede, il problema non è, ma insomma, qualche milione di italiani, quindi che tu dici è stato sbagliato il metodo all'inizio. Questa è la stessa ragione per la quale poi il governo dice ho tagliato le tasse, e invece, avendolo fatto così, è una spesa in più e non è una tassa in meno perché non è fatta in dichiarazione. Quindi, come si vede, l'arte di governo dovrebbe essere fatta secondo regole precise. Però sulla questione del metodo posso essere d'accordo. Sul fatto che uno, se ha superato i 26.000 euro, li debba restituire, purtroppo, cioè, non vedo lo scandalo. È stato semmai appunto sbagliato. È sempre una grattatura di scatole che ti viene certo, in incombenza a te. E se permetti a uno che è un incapiente, glieli dai, te li deve pure restituire. Francamente, è una presa per i fondelli. L'incapiente, dai, certamente è una categoria. Cioè, che lo Stato non solo dice no, tu anche se hai poco io non ti do niente, ma guarda, sai cosa faccio? Ti faccio provare l'ebbrezza, mettetelo in tasca per un giorno, poi domani me lo ridai. Spenditelo. Dai. Comunque 800 24 00 24, questo è un tema che abbiamo visto sui giornali molto molto, che riguarda 1.400.000 italiani, sicuramente. Però caro Oscar, c'è questo episodio di cronaca nera, quella di Sondrio. No, di io apposta lo dico, perché quello di Sondrio, cioè un papà che strangola il figlio e poi si impicca, finisce a pagina 49. Scusa, fine dell'osservazione. No. Domanda da giornalista a giornalista: questo povero Protasio Enrico Sala uccide il figlio, maledizione, di 6 anni, si impicca. Non se ne è occupato nessuno. Forse perché a Sondrio gli inviati è più difficile mandarli. Ma... No, non però lo so. Scusate, certamente tu, la vicenda tu vuoi dire che la vicenda di Sara Di Pietrantonio, uccisa dall'ex fidanzato, no, è bruciata. È una vicenda terrificante. Però fai notare che c'è un rilievo mediatico diverso. Insomma. C'è, ma chiamalo rilievo mediatico diverso. Quella di Sondrio è a pagina 49, se c'è. Ma per dire, noi facciamo questo straordinario mestiere per il quale... Scegliamo anche scegliamo. Ma io credo che ci sia una specie di riflesso condizionato, cioè è ovvio che la ragazza bruciata, ripeto, tragico evento che testimonia, adesso vedremo che cosa, tantissime cose negative, però poi quello ha ammazzato il figlio e si è ucciso lui, vabbè. No, però mi ha colpito, io l'ho letta anche in rassegna stampa, la posizione di Giulia Bongiorno, che è un avvocato penalista, ex parlamentare, e da anni si batte per contrastare la violenza sulle donne. E che è donna di straordinari meriti, secondo me. Però oggi sul Giorno fa questa dichiarazione: ci vorrebbe, sentite qui, la previsione di aggravante per i casi di femminicidio, soprattutto i più efferati come questo, cioè la bruciata. L'obiettivo è arrivare all'ergastolo per una deterrenza da comunicare con una grande campagna mediatica. E a chi gli chiede, ma scusi, l'eguaglianza di fronte alla legge, risponde: per anni, anzi per secoli, il diritto è stato pensato al maschile. Ora serve una tutela spudoratamente femminile. Che detta comunque da una che si muove sempre nell'ambito della legge, è chiaro che suona come anche una provocazione, cioè un qualcosa che serve per... No, credo che l'abbia volontariamente formulata così, non è una persona che parla tanto per parlare. E io devo dire la verità, non sono d'accordo sulla proposta, nel senso che sono da sempre contrario, sono un liberale, impenitente, a tutto questo proliferare di fattispecie penali. L'ho detto per l'omicidio stradale, mi sono preso la mia bella dose di insulti, perché il governo ha pettinato la demagogia di chi è convinto che bisogna per ogni circostanza che provochi un omicidio creare un reato ad hoc, quando esistono le aggravanti che bastano benissimo per arrivare fino all'ergastolo, non c'è nessun problema. Adesso la Bongiorno lo applica anche al femminicidio, l'aggravante, l'ospedale, ma sì, sospendiamolo a 3 metri d'altezza con un cuneo appuntito sotto il sedere, facciamo tutto quello che volete voi, ma è una superfetazione, proliferazione, moltiplicazione di fattispecie che non risolve la questione di fondo. Io ho twittato subito: la l'atroce delitto del fidanzato ex mollato che brucia e uccide la fidanzata libera di mollarlo, dice di un problema persistente nella testa degli uomini, un problema culturale, non è un problema di fattispecie penali, gli diamo l'ergastolo oppure lo obblighiamo a sposare una che non vuole, che potrebbe essere peggio. La questione che dico io non è quella penale, è quella antropologico-culturale. Buongiorno, capisco che dica sovvertiamo il diritto a favore delle donne, ma non così, cioè non c'entra niente. Ma perché quello sarebbe fermato? No, io dico che mi suona un po' come chi dice in America laddove c'è la pena di morte funge da deterrente al crimine, che è accertato dalle statistiche, non è mai così. Anzi, gli stati con il maggior numero di crimini capitali sono California, Texas, quelli dove si eseguono più condanne a morte. Però capisco, forse è più l'esasperazione. Dove ci sono anche poi i criminali seriali, ti dice tanto dopo il primo cosa ho da perdere. Dopo il primo cosa ho da perdere. Cioè l'idea di dire guarda che se commetti quel crimine c'è l'ergastolo, è dimostrato nel mondo, non comporta il fatto che sia una deterrenza per compiere quel crimine. Però insomma, Giulia, buongiorno. No, ma il fatto anche di dire, la cosa che più mi ha colpito è il diritto pensato per secoli al maschile, ora vero, deve avere una svolta spudoratamente femminile, al passo coi tempi. Scusami, quello che è avvenuto nei lunghissimi primi anni il diritto di famiglia per decidere a chi si affidavano i figli in caso di separazione e per l'entità dell'assegno di separazione divorzile è andato esattamente nel segno che diceva Gira Buongiorno. Adesso si sta recuperando un po' più di equilibrio, ma però per anni è stato siccome per secoli le donne hanno sofferto, adesso è giusto retribuirle con un sovrappiù. Poi lì si dice servono anche investimenti sull'educazione, cioè di questi anche, ragazzi, io direi soprattutto ragazzi sull'educazione, punto. Ma oggi mi ha colpito un titolo della stampa, mi ha colpito perché era un titolo maschilista a maschilista, c'era un titolo di un pensoso articolo, per carità, di un strepitoso giornalista, Nerotti, che dice a chi affidiamo le nostre figlie? Io non so che mondo viva chi ha fatto quel titolo, perché non è l'autore del pezzo, lo sai che nei giornali sì, chi fa il titolo non è. Ma come a chi affidiamo le nostre figlie? Ma che mondo vivete? Cioè, ma cosa fai? Un contratto? Il papà maschio fa il contratto col fidanzato maschio e gli affida la figlia 22enne? Quel solo titolo dimostra che il nostro problema mentale di maschi c'è ancora. E come vedi, parlo di un titolo della stampa di Torino. Non sto parlando di quello che ovviamente se brucia la ragazza perché non ne vuole più sapere è uno che testimonia di avere un problema serio in testa, ma tanti maschi ce l'hanno ancora. Sì, ma poi voglio dire a chi affidiamo le nostre ragazze, ricordiamo che il profilo di questo che ha detto è vero sono un mostro, che faceva credo la guardia giurata e che racconta al Messaggero per arrotondare faceva le feste per i bambini, cioè nel senso anche se, ma lei era un volontario, è la classica persona, voi andate dal vicino a dire era assolutamente gentile, educato, normale, quindi in questi casi io non lo so che cosa scatta nella testa della catta l'ansia del possesso, che è una testa maschile dal punto di vista sessuale ancora forte. Intanto però ci chiama Paolo da Torino, credo sul tema degli 80 euro. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Effettivamente sul tema degli 80 euro, sì, perché dica. Neanche a farlo apposta mia moglie è tornata proprio ieri sera dal CAF. Ed è una di quelle che voi accennavate voi che deve restituirli. Cioè? Come mai deve restituirli? Penso di aver capito, perché noi percepiamo 3.000 euro d'affitto di una piccola casetta che abbiamo. E quindi avete sforato. Avete sforato. Penso sia quello il motivo, sì. Ma quello che mi colpiva di più è, va bene, li restituiamo, ce li hanno dati, li restituiamo, non è un grosso problema. Ma ce li chiedono tutti in un colpo solo. Sì, questo è vero, cioè vengono chiesti non 80 euro, questo che dicevo non 80 prima euro al ad mese. Alessandro, non è giusto. No, io non ho detto che è giusto, nel senso se ci sono se come hai detto tu le regole sono state poste in maniera sbagliata all'inizio, cioè nel metodo è una cosa, ma se viene messo un limite è giusto che chi lo supera non prenda dei soldi e chi non lo supera. Lui ratea, però poi questa è un'altra questione. Cioè, quindi Paolo, voi dovete restituirli una tantum, non 80 euro al mese. Penso che ci sono questi 960 euro da restituire nella busta paga di mia moglie, penso sia quella di luglio. Sì, cioè sono stati trattenuti, verranno trattenuti proprio così, una tantum. Sì. E va bene, però lei è un po' abbastanza serafico, mi sembra il dire, vedi Oscar, il dire vabbè, ci sono da restituire. Io rispetto chi è serafico, però capisco innanzitutto chi è imbufalito, incazzato, sì, nero. Sicuramente. Non c'è dubbio. Però Paolo, grazie per questa testimonianza, se ne avete però, vedi, ancora chiamato spirito sabaudo, infatti è lo spirito sabaudo, che però sconfina nella soggezione, non so come devo dire, abituati a subire dal re qualunque cosa. Subiamo anche questo. Allora, invece, tra poco parleremo di sanità in Calabria. È vero che la sanità è un po' il bancomat di tutte le regioni, eh? Quant'è il bilancio regionale? Beh, 80%. La media è anche l'85%. 80-85%. Ma in Calabria... Il problema è che è un bilancio strano, perché non c'è contabilità, capisci? È una cosa... Vi racconteremo tramite l'ingegner Massimo Scura, che è commissario per la sanità in Calabria, quello che sta succedendo. Che anche la contabilità è scura, sai. Anche la contabilità è scura, tra poco. Eccoci qua, caro Oscar, alle 8:39 minuti. Eccoci tornati. Due ascoltatori, se sono gentilmente concisi. Salvatore da Brescia. Buongiorno a tutti. Senta, io vorrei intervenire sul discorso dell'onorevole Buongiorno sul femminicidio. Sì. Mi sembra non è più onorevole, comunque, avvocato. Vabbè, insomma, quello che è. Mi sembra una cosa talmente assurda, fuori di testa, che insomma andrebbe veramente bandito, almeno l'idea, per l'amor di Dio, poi le persone per carità. Beh, l'idea almeno lasciamo, l'idea e l'opinione lasciamola. No, però mi scusi, se così, cioè se ne arretta questo tipo di opinioni, allora viva Salvini, viva Grillo, tutti quelli che cavalcano l'onda dell'emotività, dell'indignazione, insomma, diventano posizioni veramente poco equilibrate, secondo me. Sì, va bene. Secondo me sono veramente. Vabbè, insomma, io dico: si può contestare l'idea. Lei, secondo lei, proprio non bisognerebbe dare neanche spazio all'idea. Ricordiamo, avvocato Buongiorno ha detto: ci vorrebbe l'aggravante per femminicidio per dare un ergastolo sempre come deterrenza a quelli che, insomma, vedendo questa cosa. Va bene, Salvatore è chiarissimo nella sua contrarietà. Francesco. No, ma poi con quello che colpisce è che un uomo di diritto, o una donna di diritto, chiamatela come volete, insomma, che io stimo molto, cioè non è, la Buongiorno nei processi è di una finezza assoluta, certo. Lo dico proprio, lo sanno tutti ed è vero, è così, tutti glielo riconoscono. Allora, l'idea di tornare, sia pure per una circostanza che le sta a cuore, quella di genere, alla un'idea di giustizia, Antico Testamento, occhio pro, canto perdente, è il contrario di quello io che è l'idea che qui della la giustizia, rabbia, capisci? L'indignazione, sì. Forse hanno un po' però il nostro osservatore quando dice beh, e allora lei critica poi Salvini quando, però ha ragione. Francesco ci chiama da Venezia, buongiorno Francesco. Buongiorno Mila, buongiorno Giannino. Eccoci. Volevo portare un piccolo esempio. Io ho vissuto in Sudafrica per un po' di anni per lavoro e lì in Sudafrica, come sapete, c'è stato l'apartheid. Dopodiché, quando finalmente diciamo l'apartheid è stato abolito, i neri che hanno preso il potere, che hanno giustamente cominciato a governare il paese, hanno però introdotto delle leggi molto molto a favore dei neri, perché appunto si pensava che nel passato erano stati bistrattati, riequilibrare. Il risultato è che la situazione però non è così, cioè non è in questo modo che porti una situazione in pareggio. In realtà adesso se uno è bianco praticamente è molto molto difficile lavorare, c'è sempre la precedenza. Cioè per dire questo paragone, per dire che non si riequilibrano secoli di diritto al maschile. Cioè, non vorrei che alcuni pensassero che Francesco sta tra virgolette esagerando perché è razzista. No. Cioè sono stati effettivamente introdotti nella legislazione dei vincoli discriminanti negativi per l'accesso a alcune carriere, l'esercizio di alcune professioni, l'esercizio di alcuni diritti sociali, cioè... i punti per le graduatorie, ecco, cose così. Francesco dice esattamente le cose come stanno. Quindi, secondo me ha ragione. Lei dice, Francesco, il timore che andando a una legislazione spudoratamente femminile, come dice Giulia Buongiorno, si faccia lo stesso errore. Non è che la legge è uguale per tutti, dice. No? Non è chiaro. Un problema culturale. Ecco. Non si cambia con l'intenzione di una legge. Va bene. È chiarissimo. Grazie, Francesco. Allora, dicevamo, la sanità è un bancomat in molte regioni d'Italia. In Calabria, abbiamo letto questa notizia sul Corriere della Sera, salutiamo l'ingegner Massimo Scura, che è commissario per la sanità in Calabria. Grazie, ingegner Scura, di essere con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo letto questa vicenda riguardante l'azienda sanitaria di Reggio Calabria. Esatto. Il cui debito, già bisogna dire, debito presunto, quant'è? Ce lo può dire? Ma il debito presunto varia ovviamente di, non dico di giorno in giorno, ma quasi. Alla fine del 2014 era di 523 milioni, una parte di questo debito è stato pagato. Nel frattempo sono intervenuti altri decreti ingiuntivi firmati dai giudici a favore dei creditori. I creditori vanno al tesoriere, si fanno pagare, si fanno pagare il corrispettivo. Il tesoriere adesso è cambiato e ci trasmette esattamente l'importo pagato, non solo, questo lo facevano anche prima, sì, ma anche la distinta dei pagamenti, in modo che ogni fattura possa essere riconciliata in contabilità, però attualmente esattamente quant'è il debito non lo sappiamo. Ecco, che già questo è fantastico. Avendo ricevuto l'ennesima comunicazione da Agentrate, chissà cosa mi contesta stavolta, sentire da lei dice: ma se riesci dalla distinta, e ci mancherebbe altro. Scusa, non ho capito. Questo è pare che sia un evento. Pare che sia un evento. No, perché Ingegner Scura ci deve raccontare questo. Quando si dice debito presunto, ha già dell'incredibile. Sì, perché? Esatto. Perché c'è un piccolo vizio, mi sembra, che c'era lì dove lei stava facendo il commissario, e cioè che non si tenevano conto, non si teneva la contabilità, no? Esatto, il problema nasce soprattutto, ma c'era anche prima, nel momento in cui nel 2007 le tre aziende sanitarie locali di Reggio, Palmi e Locri sono state unificate in un'unica azienda sanitaria provinciale. Sì. Questo è stato fatto con legge regionale, ma è rimasto sulla carta, per cui le tre ragionerie, per semplificare, sono rimaste dove erano, e quando arrivavano le fatture, naturalmente complici anche dei dirigenti e dei funzionari poco avveduti o poco attenti e forse anche poco competenti, queste fatture hanno girato per tutti gli uffici meno che andare dove dovevano andare. A volte venivano pagate invece due volte. Aspetti, nasce proprio da qui il problema, che un bel giorno, quando dopo poche settimane che io ero qui, io sono arrivato il 12 marzo dell'anno scorso, a un certo punto una fattura di 6 milioni è stata richiesta alla ragioneria. Per fortuna il compratore, colui che aveva venduto la propria azienda a questo signore che aveva avanzato questa fattura, ci ha avvisato dicendo: attenzione, che io quella fattura l'ho già incassata tempo fa, prima di chiedere l'attività. Cioè, capito, il fornitore, Oscar, deve avvisare: guardate che è già stata pagata, se no la pagavate due volte. Esatto. Ma come è possibile? Di questo abbiamo attivato tutto un... Io ho una domanda da fare a Scura, perché della contabilità non digitale, anzi non contabile per così dire, cioè della necessità di ricorrere a consulenti esterni che esercitano l'incarico per costruire la contabilità, noi scriviamo, noi dico dall'informazione che ci abbiamo i conti pubblici da 6-7 anni, perché infatti i conti tornano esattamente con la circostanza che lei ha ricordato prima. La mia domanda è, che esula dal suo incarico a cui è stato chiamato recentemente, come mai nessuno è finito in galera? Cioè, come mai in tanti anni non c'è stata un'indagine accurata, come altrove capita in Italia, che abbia accertato i responsabili di procedimento di omissioni così gravi, intollerabili, nessun paese civile, penso, e nessuno è in galera, secondo lei? Ma il problema, io lo vado dicendo da poche settimane dopo che sono qui, il problema di fondo è culturale. Cioè, il popolo calabrese è stato narcotizzato da questo sistema, non solo contabile. Lei tenga presente che nel Consiglio regionale della Calabria c'è una sola donna consigliera, nel Consiglio comunale di Reggio Calabria non ce n'è neanche una, a Cosenza ce ne sono tre, potrei andare avanti. Cioè, il sistema consente, in modo, a mio giudizio, improprio, per usare un eufemismo, consente tutto questo impunemente. Noi stiamo proprio in questo. Beh, ma ci dovrebbe essere dei magistrati. Perché i magistrati? Lei ci sta dicendo che i magistrati sono conniventi. No, i magistrati, questo lo dice lei, io non lo so. No, scusi, però lì ci sono plateali notizie di reato. Viviamo in un paese in cui c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Non è che si tratta di ipotesi di reato su cui si può procedere solo su esposto di parte. Qua la gente va in galera anche per sospetti, eccetera, eccetera. Questo è un caso eclatante di cui io mi sono stufato da anni di occuparmi, perché non esiste in un paese civile che uno va avanti 9 anni a dire in Calabria non c'è la contabilità, perché nel frattempo sono passati 9 anni e il lettore ti dice scusa, ma com'è possibile? E tu gli dici è possibile per una questione culturale, vuol dire che la legge lì non impera, lo Stato non è sovrano, le cosche comandano, gli interessi prevalgono, allora va messa così, perché io penso che ci sia, e dico, lei è a quel punto, onore a lei che si trova a dover combattere questa battaglia, però dopo guardi, tanti anni è impossibile che lo Stato nella provincia di Reggio Calabria sia abbastanza assente, l'ho detto a tutti i livelli, sì. quindi adesso io non sposo esattamente quello che dice lei ha espresso un parere, diciamo che c'è un sistema, tenga presente, ecco una piccola particolare, che all'epoca l'ASL di Reggio Calabria e quella di Locri sono state commissariate per inquinamento mafioso. Come no? Ricordo una famosa relazione. E quindi insomma questa la dice lunga. Però io leggo per esempio dal Corriere della Sera, ingegnere Scura, lei a un certo punto va dal direttore della ragioneria dicendo di fare verifiche e gli ha risposto testuale il direttore della ragioneria: non ci penso nemmeno lontanamente, non posso essere certo di non pagare per la seconda volta. Allora va dai vertici amministrativi, dal responsabile, tocca dal a lei, direttore amministrativo. Dal direttore amministrativo, risposta, si è messo in malattia 15 giorni, dopodiché si è dimesso, cioè capisce che voglio dire, certo, è questo il contesto. Vada avanti. Ho chiamato uno da fuori. Pagato 600 euro lordi al giorno. Lordi significa compresi i viaggi in aereo, il pernottamento, vitto e alloggio, Cioè, perché quindi, i dirigenti, quindi con i dirigenti c'è collaborazione nulla? Assolutamente, a parte il collaborazione nulla, ma sono tutti corresponsabili di quello che è avvenuto. Esatto, perché questo non è avvenuto. È in questo che diceva Oscar, cioè dei margini di intervenire. Certo, è chiaro. È questo che diceva Oscar Giannino, quindi, cioè i margini per intervenire penalmente. Paradossalmente, questo è a dover chiamare consulenti esterni, esatto, capisci? Cioè, perché da dentro non cavi il ragno dal buco. Con un aggravio dei costi, peraltro, in generale. Naturalmente, io adesso devo ricostituire una squadra ad hoc, composta da qualche ragioniere, un dirigente amministrativo, un paio di avvocati esterni per rimettere in piedi questo sistema e trovare soprattutto uno che alla fine firmi e dica questa fattura è quella di cui ha la contabilità numero 30 33 34. Capito? Adesso, ma ci rendiamo adesso, conto, cioè nella macchina d'accordo, ma noi lo Stato lì ha chiamato una specie di sceriffo esterno. Sì, ricordiamo in generale Marco Scura viene da Gallarate, da Gallarate in provincia come di Varese. Si capisce, ma è uno sceriffo esterno, ma la realtà è che questo sceriffo farà tutto quello e io gli auguro il massimo successo, ce ne vorrebbero tanti di sceriffi così, ma poi il giorno che se ne va tutto torna alla situazione che lui ci ha descritto, perché lì è lo Stato che ha fallito il progetto. Ma infatti, ingegnere Scura, laddove siamo la macchina più iperburocratizzata d'Italia, tra le tutte, no? E in Italia, ma in Calabria, ma in altre regioni, cioè è possibile che in tutta quella struttura si paralizzi tutto così perché quello si mette in malattia, quello non prende responsabilità, il dirigente è connivente, l'altro, no? Questo Senta. Succede. Le dico due cose. Primo, intanto io sì sono nato a Gallarate in tempo di guerra per sbaglio, sono figlio di abruzzese madre e calabrese padre, anche per questo hanno mandato me. E mi piace perché, questa fierezza. Perché per poter affrontare questi problemi ci vuole anche passione e ci vuole quindi un amore particolare per questa terra. Secondo, anni fa, sempre in quegli anni, 2007, sono morti due ragazzi per colpa di medici, anestesisti, chirurghi, eccetera, eccetera. La Cassazione li ha condannati, la Cassazione, quindi i medici, è stato ultimato il giudizio, nessuno ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di questa gente, fino a quando sono arrivato io ho posto il problema, sono stati finalmente sospesi per un anno. Cioè, l'omertà è uno dei problemi più gravi. Quando dico omertà non è soltanto quello che non parla, non dice, non vede. L'omertà è che tutti quanti si sono assuefatti di quella zona, perché era a Locri questo, si sono assuefatti ad un certo andare. Il problema è culturale, bisogna mettere in piedi dei sistemi che boccino quell'andazzo e quindi bisogna fare delle azioni. Il timore che certo faremo. Che adesso farà. Il timore Ma per concludere. Non le farò solo io, le farà anche la magistratura. sua. Ecco. Ah, ecco. No, il timore, per concludere, ingegnere Scura, di quello di cui diceva Oscar, che passato lei si ripristinerà l'andazzo. Non credo, intanto perché io non passo nel giro di poche settimane, ma stiamo rimettendo in piedi con decreti, con, che sono delle leggi praticamente, i decreti del commissario sono delle leggi, ne abbiamo già sfornati circa 190 da marzo dell'anno scorso, di cui alcuni importantissimi. Se lei oggi legge la Gazzetta del Sud della Calabria, della Gazzetta, che è il giornale più importante, anche se edito a Messina, di tutta la Calabria, si rende conto di quello che sta succedendo. Tifiamo per il nostro sforzo. Regionale contro l'avvocatura dello Stato, contro la regione, contro i sindaci, che dice: ah, però mi sono sbagliato, non era vero io. Cioè, l'altro giorno ho sentito dire, accusare questa gente di essere dei dilettanti allo sbaraglio. Io ho giocato a pallone da dilettante, mi sento offeso. Guardi, ingegnere Scura, noi guardi, se, oggi se il compleanno vuole di Clint Eastwood, glielo dedico questo ricordo perché mi ricorda un po' lui. Intanto noi la ringraziamo, ricordiamo ingegnere Massimo Scura, di Gallarate di nascita, ma fieramente abruzzese e calabrese di origine, commissario per la sanità in Calabria, che ci racconta cosa questo spaccato e come lo affronterà. Insomma, siamo con lei, nel la richiameremo. Gorgo del non stato. Esatto, esatto. Che dobbiamo fare? Ci spiace Flavia da Roma e Massimo da Bologna, come al solito, se riusciamo ci teniamo i numeri, se potete intervenire domani ci fa molto piacere. Sì, dai, che sono temi importanti. Intanto vi ringrazio, domani, siamo qua.